Smart City, la città intelligente. Genova ha fatto cappotto. Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo del bando Smart Cities and Communities del 2011, lanciato dalla Direzione Generale Energia della Commissione Europea all'interno del settimo programma quadro. In questa prima tornata gli ambiti finanziati erano tre. Il primo riguardava la pianificazione strategica e sostenibile della città. Il secondo bando finanziava invece reti di riscaldamento e raffreddamento a basso impatto economico e ambientale. Il terzo, l'efficientamento energetico degli edifici. Ebbene, Genova si è aggiudicata finanziamenti in tutti e tre i bandi e dei tre progetti due sono arrivati primi, mentre il rimanente si è piazzato terzo. Per Genova parliamo di 6 milioni di euro complessivi in arrivo dall'Unione Europea. Gloria Piaggio, dirigente comunale e segretario generale dell'associazione Genova Smart City, che abbiamo già avuto occasione di conoscere, ancora una volta in linea con noi per parlarne. Buonasera Piaggio. Buonasera Melis, buonasera agli ascoltatori. Vabbè, iniziamo da questi progetti. Il primo rientra nel bando planning dedicato alla pianificazione urbana e il progetto che avete messo insieme e che è coordinato dal comune di Amsterdam si chiama Transform. Di che cosa parliamo? Allora, il progetto Transform riguarda la pianificazione delle città, che è alla base della Smart City, perché si sa che l'idea della Smart City, che è definibile come si vuole, in realtà significa davvero approcciare la crescita di una città e la sua trasformazione attraverso la pianificazione. È un progetto che ha un consorzio molto bello perché ha delle città importanti come Amsterdam, Amburgo, Lione, Vienna, Genova e Copenaghen, alcune molto molto avanti già nell'applicazione di concetti smart, altre più indietro, ma è un consorzio molto partecipato dalle città che l'hanno costruito e prevede di studiare dapprima lo stato dell'arte nelle diverse città della pianificazione intelligente della città, quindi progetti già in corso o che stanno avviandosi all'interno delle sei diverse città, trarre fuori i dati qualitativi e quantitativi, proporre uno strumento che poi verrà tradotto in un manuale informatico evidentemente e nell'ultima fase ci sarà una replicazione, disseminazione, come previsto in tutti i progetti europei, delle metodologie individuate. Come dire, un progetto di pianificazione, voi avete dovuto già individuare però qualche ingrediente, per esempio mi pare che tra le proposte ci sia questa del cruscotto informatico, no? Una piattaforma in cui confluiscono tutte le informazioni sulla città di cui abbiamo già parlato. Sì, il cruscotto è un po' il simbolo delle città smart perché integra tutte le metodologie e strumenti pianificatori in modo intelligente. Ecco, senta, il secondo bando invece riguardava heating and cooling, cioè riscaldamento e raffreddamento. In cosa consiste questo progetto che avete presentato? Sì, allora, questo progetto, il cui acronimo è Celsius, è guidato dalla città di Göteborg. Allora, nel caso di Genova prevede una serie di progetti pilota. Nel caso di Genova il progetto pilota è quello di realizzare una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento in un distretto tra l'altro colpito anche dall'alluvione di novembre, sfruttando una tecnologia innovativa che usa l'energia che un turbo espansore produce nel arrivo del gas e nella insomma nel voi gas. A Genova vi arriva il gas in alta pressione, siccome esatto. Ne avete bisogno in bassa pressione mettete in mezzo questo turbo espansore che poi è una turbina che genera l'energia elettrica anziché sprecarla. Esattamente. E a questo si aggiunge anche un progetto di rete di teleriscaldamento, vero? Sì. Esatto, si è aggiunto un progetto di una mini rete di teleriscaldamento perché nelle nostre città, sicuramente a Genova ma anche in altre città italiane, è difficile fare una rete estesa come ad esempio a Copenaghen. Allora si pensa a una serie di micro reti più facilmente realizzabile in un contesto così altamente urbanizzato come il nostro territorio offre. Arriviamo al terzo progetto. Il terzo progetto, che si chiama R2 Cities, R2 Cities, riguarda invece l'efficientamento energetico, cioè sfruttare la tecnologia e anche l'organizzazione, l'informatica, per migliorare in distretti, quindi in quartieri abbastanza allargati, il consumo energetico degli edifici, tenendo presente che nell'Unione Europea il 40% dell'energia viene utilizzato dagli edifici che rilasciano i 2/3 del CO2 che rilasciamo noi come Unione Europea. Ecco, tra l'altro uno di questi interventi riguarda la cosiddetta diga di Begato, che è un edificio piuttosto famoso lì a Genova. Sì, la diga di Begato, come la chiamiamo noi, che blocca una valle, è un edificio di case popolari, social housing, quindi l'intervento è particolarmente interessante perché sono interventi che non potrebbero essere realizzati dai singoli abitanti e prevede una molteplicità di interventi, dall'utilizzo dell'aria, dall'isolamento, tecniche di isolamento, di gestione del calore, quindi sono l'approccio che questo progetto Art to Cities ha, è dimostrarne la fattibilità anche in case popolari, anche costruite male come quelle del dopoguerra, di una sostenibilità economica importantissima per le imprese che partecipano. E questo è un tema importantissimo, perché il tema di andare a intervenire sull'esistente al di là del costruire bene il nuovo è il tema su cui si gioca la vera partita dell'efficienza energetica negli edifici. Le chiedo quali pensa che siano stati i fattori vincenti di questi progetti, perché insomma, per esempio, anche Torino ha partecipato a tutte e tre, ma è rimasto a bocca asciutta. Lei quale crede che siano stati i fattori decisivi? Allora, i fattori decisivi sono state alla partenza l'esistenza di questa associazione, del percorso che Genova ha fatto come Smart City, che ha messo insieme tante professionalità, tante competenze dall'Università di Genova, la Società d'Apollonia, l'Agenzia Regionale per l'Energia, a tante imprese, alcune delle quali hanno partecipato nel progetto, che avevano già fatto un percorso di conoscenza di queste tematiche. Nel primo in particolare abbiamo già lavorato al progetto intensamente con due workshop di 3 giorni l'una di full immersion prima di presentare la domanda. Nel terzo sicuramente il coinvolgimento, ad esempio nel progetto della diga di Begato, di una banca all'interno dei partner, cosa abbastanza eccezionale nei progetti europei, abbiamo faticato a convincerla, perché studia già le modalità di finanziamento e replicabilità del sistema utilizzato. E quindi questo l'Unione Europea ha visto che c'è già un percorso avviato, che non è quindi qualcosa di calato dall'alto, ma qualcosa di realizzabile in modo pratico ed immediato. Insomma, non è una ricerca di fondi fine a se stessa, e questo credo che sia la preoccupazione di fondo di chi fa questo tipo di valutazioni, ma è una richiesta di fondi per un progetto solido. Grazie Piaggio. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo qui, domani parliamo di un'altra città impegnata su questo percorso, anche se è solo all'inizio. Andremo a Bari. Per intanto buona serata.